Eris. Eris Spagnol ha una piccola azienda nella zona del Prosecco, Valdobbiadene, Guia di Valdobbiadene, giusto? L'altro microfono glielo diamo, Marco, prendi. Con Eris ci conosciamo da molto e da tempo ascolto le sue storie. Cerchiamo di, perché non tutti magari hanno fatto un giro da quelle parti, credo, no? Non sempre. No. Facciamo uno sforzo. L'ultima volta che sei stato in vigna, quando? È diverso tempo, perché ha sempre piovuto ultimamente. Ma comunque 8 mesi fa? No, 10 giorni. 10 giorni fa, sei andato in vigna. Stai camminando la vigna, raccontaci, fai finta di raccontarci, descrivici, cosa vedi? Beh, si vede ancora un po' di tutto perché abbiamo la stagione che è un po' particolare. Prima ha fatto caldo quest'estate, quindi la vendemmia è stata fatta col caldo, uva asciutta, e dopo ha piovuto per un mese e mezzo. Terra e bagnata, asciutta? Terra bagnata. E in più perché c'è l'erba è cresciuta e sta crescendo ancora. L'erba sta crescendo ancora, che è insolito per questa stagione. Se tu alzi lo sguardo, vedi i tuoi filari, cosa vedi poi? Oltre? Bah, là da me ci sono oltre, ci sono anche i boschi. Ci sono i boschi? Attorno, per capirci, ci sono ancora le foglie su, non tutte, ma sono piante ancora vive. Nella zona del Prosecco, mi raccontavi oggi, il Prosecco lo sappiamo, no? È uno dei vini più bevuti, più alla page in questo momento, non solo in Italia ma all'estero. Beh, insomma, poi non parliamo naturalmente di grandi raffinatezze, parliamo del bicchiere che uno si beve così per aperitivo. E quindi è un vino sicuramente molto diffuso, giusto? Sì. Chi fa il Prosecco, diciamo generalmente, non sono solo i vignaioli come te. Quanti ettari hai tu? 3 ettari quasi. Quasi 3 ettari. Diciamo aziende come, citavamo oggi nella chiacchiera, Mio Netto, piuttosto, dico un nome X, potrei dirne altri. Sono SPA, non aziende quello. Ecco, sono SPA, questa è già, diciamo così, una risposta. Allora io oggi ho chiesto a Eris, ma è vero sono che... Sono aziende trasformatrici e commercializzatrici. Insomma, il Prosecco si può fare in tanti modi, si può fare a partire dal proprio vigneto, coltivando l'uva come sì. Fa Eris. Ascolta, nel tuo sito c'è scritto una cosa secondo me molto interessante, che tu dici, non lo so perché non te l'ha detto nessuno di scriverlo, è il tuo sito, però tu dici: sono assolutamente contrario all'utilizzo degli OGM in agricoltura, e inizi tutto uno sproloquio lungo 10 pagine contro il... Perché hai messo questo? Beh, perché sono partito già inizio con Veronelli, allora in più perché sto osservando cosa succede, perché hai una modificazione delle piante, oltre che di noi stessi, per capirsi. Perché io parto dal presupposto che, visto che siamo ospiti della terra, dobbiamo avere una simbiosi, una contaminazione, una cooperazione, in maniera per non distruggere tutto, perché è lei che distrugge noi. Prima magari la distruggiamo noi, ma dopo noi facciamo la stessa fine, come si sta osservando un po' dappertutto, con zone aride e coltivazioni che fanno in maniera diversa, come per esempio anche adesso in Africa e i paesi emergenti tipo Cina e India l'hanno comperata quasi tutta e non lasciano vivere ai cosiddetti agricoltori africani, che per quello dopo ci sono questi problemi anche lì di emigrazioni che vengono sui paesi più ricchi perché non hanno più la possibilità di mangiare. Ecco, diciamo quindi che la terra è un unico ecosistema. Paola, ti volevo chiedere,